ti incontravo alla marina, sola sola con le stelle con la luna, tutti quanti ti chiamavano ricciolina, piccola bambina del mio cuor. Non ti dissi che una semplice parola, quella sola che l'amore ci insegnò. Ricciolina, ricciolina del mio cuor, tu sei stata il primo sogno e il primo amore della vita mia, il primo canto della nostalgia. Tutti i baci della nostra gioventù, le parole che dicevi sempre tu, io li ricordo ancor. Ricciolina, ricciolina del mio cuore, questi sogni della prima giovinezza, ricciolina, li ricordi sempre tu. Si viveva tra un bisticcio e una guarezza, eri una bambina, nulla più. Quante volte lungo il mare sconfinato son tornato per cercarti come allora. Ricciolina, ricciolina del mio cuor, tu sei stata il primo sogno e il primo amor, il primo amore della vita mia, il primo canto della nostalgia. Tutti i baci della nostra gioventù, le parole che dicevi sempre tu, io li ricordo ancor. Ricciolina, ricciolina del mio cuor. Tutti i baci della nostra gioventù, le parole che dicevi sempre tu, io li ricordo. Ricciolina, ricciolina, dai.